serata, 451 frammenti sonori, forse è meglio dire una buona nottata, visto che siamo insomma al di là anche del mercoledì, appunto dentro la notte del giovedì, e mezzanotte insomma scoccata da poco. Per chi ci ascolta invece sul blog, insomma, faccenda completamente diversa, le ore possono essere completamente scambiate, insomma in maniera anche piuttosto comoda. Tra l'altro ricordiamo 451 frammenti sonori.noblogs.org. Max Macchia questa sera in vostra compagnia, salutiamo tutti gli ascoltatori, anzi saluto, visto che sono insomma piuttosto in solitaria, danseur vari che magari ci stanno ascoltando, e parvenu, chissà perché, forse qualcuno arriva anche all'improvviso qua dentro 451 frammenti sonori Radio Città Fujiko, così per sbaglio, per caso, beh, benvenuti insomma. E 451 frammenti sonori che questa sera un po' sull'onda della scorsa trasmissione non tratterà gli shock addizionali, non vi preoccupate, ma andrà sugli agenti provocatori, agent provocatori, così un francesismo che ci vuole, anche perché è parola, insomma idioma francese che spiega bene insomma sia in termini scientifici cosa avviene con l'agente provocatore, e quindi tutta la reazione che c'è appunto attraverso un agente che agisce appunto in maniera provocatoria rispetto a una determinata insomma situazione. Mi viene in mente quella chimica in primo luogo, ma è ovvio che qua stiamo parlando non di scienza chimica, perlomeno insomma non credo, per il momento non mi sono ancora specializzato, chissà, ma magari un giorno, ma appunto di agenti provocatori che quindi provocano reazioni in termini musicali, sonori, non soltanto quelli, ma fondamentalmente insomma partiremo dal suono della musica, poi magari si arriverà anche a quell'impatto sociale voluto anche da molti artisti che appunto attraverseranno questa sera 451, magari nonostante loro, insomma. Cat Dance per iniziare, William Bennett, uno dei guastatori storici, prima White House, uno dei rumori più abietti mai sentiti anche dentro l'industria, addirittura il power electronics così definito, insomma inventato da William Bennett in primis, fu definito il punk dell'industrial. Se appunto il punk era stata quella grande movimento in termini insomma giovanili, sonori, ma anche per molti aspetti sociali, l'industria rappresenta la punta forse più tagliente di quell'iceberg che si era staccato in quel momento storico, staccato per alcuni aspetti, per altri invece decisamente attaccato e attaccante, anzi se pensiamo insomma a tanto punk politicizzato, ma anche a tanto industrial che magari si politicizzava o politicizzava, però appunto attraverso lo shock, e qua appunto ci rifacciamo anche un po' alla scorsa trasmissione, agli shock addizionali, e attraverso appunto la provocazione, attraverso quasi una sorta di trauma indotto, sia a livello sonoro che a livello immaginario, pensiamo insomma a molti, molti video che venivano girati all'epoca, era una delle forme più sviluppate, tant'è che insomma MTV deve tantissimo al flusso continuo proprio a certi esperimenti, se ricordiamo ad esempio le prime sperimentazioni video dei Cabaret Voltaire, ma anche di Psyche TV ad esempio, che debuttarono non a caso proprio con una videocassetta, neanche quindi con un vinile o con una cassetta, che tra l'altro era altro supporto insomma decisamente usato all'epoca proprio per abbattere i costi e per diffondere insomma quell'aspetto così volutamente deteriore, scioccante, appunto legato al suono e a questa volontà insomma di sovvertire sottile, di sabotare. Cattens, appunto, William Bennett hanno sempre avuto come continuità questa sorta di sabotaggio generale, generalizzato, provocazioni sotto tutti gli aspetti. Fatevi un po' di giri, insomma, su internet legati a William Bennett, ne troverete di tutte, veramente, di cotte, di crude e altro anche, perché è veramente personaggio assolutamente vulcanico. Da qualche tempo si fa chiamare Cattens, ha elaborato questo progetto e ha sviluppato anche un termini sonori interessante, che magari per certi versi era già in nuce in alcuni ultimi lavori di White House, e quel noise legato a un tribalismo e a un primitivismo che è sempre stato, sì, appunto, tra le corde di certo Power Electronics, che magari andava a impattare in maniera anche assurda, appunto, con suoni che sembravano lontanissime. Poi sentiremo, oltre che Cattens, proprio anche dei suoni proprio fatti da africani, ma non anticipo ancora niente. Andiamo appunto a trovare questo Festival of Dead, uscito tratto da poco. A parte faccende, insomma, legate a un immaginario senz'altro di stampo White House, insomma, già il titolo Festival of Dead insomma, dice in maniera chiara che Bennett non è assolutamente domo, ma in termini musicali invece ci siamo spostati appunto dentro questo noise tribaleggiante e così molto informale nel recuperare appunto questo aspetto tambureggiante, ossessivo che fa, insomma, tra gli aspetti migliori sicuramente di non soltanto provocazione sonora, ma anche appunto di approdo, e approdo anche molto interessante legato al noise. Cattens. Beh, è portentoso e anche decisamente sorprendente William Bennett, ha un po' spiazzato tutti con questa faccenda di Cat Tens, dopo 30 anni insomma di suono ottundente appunto dei White House, uscissene insomma con un lavoro che poi tutto sommato anche raffina il suo suono, anche se poi anche nelle interviste, poche interviste che circolano, Bennett insomma, come dire, un po' disdice questa cosa, un po' allontanandosi e sempre appunto proponendosi come agente provocatore e quindi come guastatore indefesso, ma non gli togliamo di certo questa caratura anche piuttosto insomma storica, anche attestata appunto da molti anni, decenni insomma di appunto rumorismi tra i più incredibili e più iperbolici che si possano ascoltare. E d'altronde poi William Bennett, prima accennavo, nel 97 se ne uscì con una faccenda che così ai più sfuggì, ma insomma i cultori della musica industrial di certo no, ovvero nel 97 la sua Susan Lowley pubblicò Extreme Music from Africa, che sembrava un po' una presa per il culo, come tante volte ha fatto William Bennett, sempre ovviamente insomma, sul versante del politicamente scorretto. In realtà Bennett ha veramente pescato progetti africani che facevano musica industrial, ma con un senso ritmico assolutamente legato a quel continente, e appunto pubblicò questa compilazione che la coordinò e appunto la diede insomma alle stampe con la sua Susan Lowley, e fu un caso che poi appunto sviluppò questo progetto di Cat Tens, che riprenderà insomma dopo un bel po' di anni. Qua stiamo parlando del 1997, i White House facevano uscire Mommy and Daddy, più o meno insomma quello è il periodo, e appunto se ne usciva in una maniera piuttosto sorprendente, anticipando di una quindicina d'anni quello che sarà appunto il progetto di Cat Tens, e proprio su questi lavori direi piuttosto eccezionali anche di musiche africane legate all'industrial. Le sentite appunto come vengono trattate faccende che sembrerebbero assolutamente fuori da quel continente, e che invece sorprendentemente anche loro riescono a fare veramente dei piccoli gioielli di suono, e di fatto insomma anticipare quello che sarà un suono noise piuttosto nuovo, che appunto è legato a quello di Cat Tens. Extreme music from Africa, dice un po' tutto. Avete sentito come appunto possa essere coniato l'industrial anche dentro appunto musicalità che non perdono assolutamente di identità africana, anzi per certi aspetti sembra quasi anche di sentire all'estrema potenza, appunto una tribalità che viene fuori dappertutto in termini sonori e in termini anche di provocazione, appunto Jean Provocateur, non è un caso insomma che si chiami così la trasmissione di questa sera, perché abbiamo sentito Petro Loa con Norada Norada, che appunto riprendeva ritmicità tipicamente africane, portandole però verso un suono decisamente potente, noise, e poi dopo Roro Guela, che magari qualcuno avrà riconosciuto anche nel ritornello finale, riprendeva quello sì un atteggiamento di tipo coloniale, perché appunto sfruttava in maniera molto molto furbetta la faccenda della New Age, del multiculturalismo, della multietnicità, e quindi Deep Forest insomma nel 92 fecero un bel po' di soldini appunto così, con questo immaginario finto angelicato, riprendendo appunto sonorità che non gli appartenevano per niente, ma soprattutto non rielaborate, ma semplicemente appunto messe lì e confezionate dentro appunto questo suono ambient, che poi in realtà era semplicemente New Age popizzata. E si riprendono la faccenda appunto Roro Guela, sfottendo anche appunto questo atteggiamento e quindi ritornando a cantare insomma più nelle corde appunto africane che non quelle insomma appunto commerciali volute insomma anche da una sorta di così viaggio perenne negli anfratti musicali per commercializzare appunto, per creare nuovi prodotti appunto da vendere sul mercato. Tutt'altra faccenda appunto music, extreme music from Africa, una fuoriuscita dall'underground per un momento, se così si può dire, insomma, non che nel 97 insomma questo disco fosse dentro tutti i negozi o insomma dentro i CD, insomma i lettori CD di varie persone, però di fatto ha creato un grosso precedente anche rispetto a Cat Dance, che abbiamo ascoltato, che è una insomma, delle realtà musicali più interessanti di questi anni, anche più discusse, perché no, sempre in un ambito che non può che essere underground, che però appunto poi riesce in un modo o nell'altro insomma a diventare non mainstream, ma comunque senz'altro a diffondersi. Pietro Loa appunto e Roro Guela da questo gioiello che è Extreme Music from Africa. E un altro personaggio che di provocazioni ne ha fatte tante, soprattutto a livello sonoro, ha trattato il noise in maniera assolutamente iconoclasta, come se già appunto non fosse iconoclasta far musica noise elettronica o noise elettroacustica, ma dei Philips, che tra l'altro insomma ascoltiamo con un ultimo lavoro, e è sempre stato in prima fila un trattamento del rumore che andava a prendere tanto dalle musiche estreme della fine degli anni Ottanta, come il grindcore e certa industrial che filtrava con l'elettroacustica, certa addirittura impro radicale, e se appunto con Fear of God Dave Phillips era dentro, insomma, il suono assolutamente debordante di Napalm Death, Carcass and Company, e con invece Schimpflug Gruppe si andava più su un versante appunto di improvvisazione noise, anche molto interessante. Magari avremo modo anche in futuro di far ascoltare vecchi lavori dei Phillips. Per questa sera invece ci andiamo ad ascoltare questo gioiello veramente anche piuttosto luccicante che è uscito da poco, che è Homo Animalis. Anche qua la provocazione continua sin dal titolo, e c'è appunto un'inquietudine musicale, una voglia insomma di provocare processi e dare appunto ancora grandi scossoni in termini di sperimentazione, che fa insomma piuttosto fresca ancora la musica e appunto la ricerca dei Phillips. Ci andiamo appunto ad ascoltare per una buona parte insomma di 451, doppio CD veramente denso e pregno di un trattamento del noise che forse si raffina come quello di William Bennett insieme a Cat Hands, ma non perde di sperimentazione, anzi proprio questa ricerca di un suono comunque più curato, non va a discapito appunto di una perenne voglia di appunto ricercare, sperimentare con nuove sonorità.